il 13 gennaio del 68. Johnny Juniper davanti a Fosso, sul palco la scritta welcome. Johnny Nero racconta di Rino, il colpo era partito e l'uomo la invada era caduto. E la musica che vola oltre le sbarre e griscirne in terza fila la sua canzone. L'uomo in nero è un maledetto. Gli occhi che scrutano uomini perduti, la dolce giù, l'unica donna, il piede di Johnny, batte tempo al ritmo, il 13 gennaio del 68. 12:40 Johnny se ne va. Con lui la dolce giù e i Perkins e gli uomini perduti dentro a Folsom. Si sentono più leggeri, si sentono più leggeri. La musica che vola oltre le sbarre e crescirli in terza fila la sua canzone. È la musica che vola oltre le sbarre e crescirli in terza fila la sua canzone.